Cari fratelli e sorelle, continuiamo oggi con la presentazione della figura di San Gerolamo. Come avevo detto mercoledì scorso, San Gerolamo dedicò la sua vita allo studio della Bibbia, tanto che fu riconosciuto da un mio predecessore, il Papa Benedetto XV, come dottore eminente nell'interpretazione delle Sacre Scritture. Gerolamo sottolineava la gioia, l'importanza di familiarizzarsi con i testi biblici. Dice: «Non ti sembra di abitare già qui sulla terra nel regno dei cieli, quando si vive fra questi testi, quando li si medita, quando non si conosce e non si cerca nient'altro? In realtà dialogare con Dio, con la sua parola, è in un certo senso presenza di quanto è cielo, cioè presenza di Dio. Accostare i testi biblici, soprattutto il Nuovo Testamento, è essenziale per il credente, perché ignorare la scrittura è ignorare Cristo». È di San Gerolamo questa celebre frase, citata anche dal Concilio Vaticano II nella Costituzione dei Verbum. Veramente innamorato della parola di Dio, egli si domandava come si potrebbe vivere senza la scienza delle scritture, attraverso le quali si impara a conoscere Cristo stesso, che è la vita dei credenti. La Bibbia, strumento con cui ogni giorno Dio parla ai fedeli, diventa così stimolo e sorgente della vita cristiana per tutte le situazioni e per ogni persona. Leggere la Scrittura è conversare con Dio. Se preghi, scrive a una nobile giovinetta di Roma, tu parli con lo sposo. Se leggi, è lui che ti parla. Lo studio e la meditazione della Scrittura rendono l'uomo saggio e sereno. Certo, per penetrare sempre più profondamente la parola di Dio è necessaria una applicazione costante e progressiva. Così Gerolamo raccomandava al sacerdote Nepoziano: leggi con molta frequenza le Divine Scritture, anzi che il Libro Santo non sia mai deposto dalle tue mani, impara qui quello che tu devi insegnare. E alla matrona romana Leta dava questi consigli per l'educazione cristiana della figlia: assicurati che essa studi ogni giorno qualche passo della Scrittura, alla preghiera faccia seguire la lettura e alla lettura la preghiera, che invece dei gioielli e dei vestiti di seta essa ami i libri divini. Con la meditazione e la scienza delle scritture si mantiene l'equilibrio dell'anima. E solo un profondo spirito di preghiera e l'aiuto dello Spirito Santo possono introdurci alla comprensione della Bibbia. Nell'interpretazione della Sacra Scrittura noi abbiamo sempre bisogno del soccorso dello Spirito Santo. Perciò raccomandava ad una sua figlia spirituale: ama la Sacra Scrittura e la saggezza ti amerà. Amala teneramente ed essa ti custodirà, onorala e riceverai le sue carezze, che essa sia per te come le tue collane e i tuoi orecchini. Per Gerolamo un fondamentale criterio di metodo nell'interpretazione della Scrittura era la sintonia con il Magistero della Chiesa. Ecco, non possiamo mai da soli leggere la Scrittura, troviamo troppe porte chiuse e entriamo in errori. È scritto dal popolo di Dio, sotto l'ispirazione di Spirito Santo, e per il popolo di Dio solo in questa comunione è guidata dalla comunione del popolo di Dio possiamo realmente entrare con noi dei figli di Dio nel nucleo della verità che Dio stesso ci vuol dire. Per Gerolamo quindi un'autentica interpretazione della Bibbia deve essere sempre in armonica concordanza con la fede della Chiesa Cattolica, e questo non è una cosa imposta da fuori a questo libro, ma il libro è proprio la voce del popolo di Dio peregrinante, e solo nella fede di questo popolo siamo, diciamo, nella tonalità nella quale si può capire la Sacra Scrittura. Perciò ammoniva: rimani fermamente attaccato alla dottrina tradizionale che ti è stata insegnata, affinché tu possa esortare secondo la sana dottrina e confutare coloro che la contraddicono. In particolare, dato che Gesù Cristo ha fondato la sua Chiesa su Pietro, ogni cristiano, Gerolamo conclude, deve essere in comunione con la cattedra di San Pietro. Io so, dice, che su questa pietra è edificata la Chiesa. Conseguentemente, senza mezzi termini, dichiarava: io sono con chiunque sia unito alla cattedra di San Pietro. Gerolamo ovviamente non trascura l'aspetto etico. Spesso, anzi, richiama il dovere di accordare la vita con la parola divina, e solo vivendola troviamo anche la capacità di capirla. Tale coerenza è indispensabile per ogni cristiano e particolarmente per il predicatore, affinché le sue azioni, quando fossero discordanti rispetto ai discorsi, non lo mettano in imbarazzo. Esorta per esempio il sacerdote Nepoziano così: le tue azioni non smentiscano le tue parole, perché non succeda che quando tu predichi in chiesa qualcuno nel suo intimo commenti: perché dunque proprio tu non agisci così? Carino, davvero quel maestro che a pancia piena disquisisce sul digiuno, anche un ladro può biasimare l'avarizia, ma nel sacerdote di Cristo la mente e la parola si devono accordare. Un altro esempio: rivolgendosi al presbitero Paolino, che poi divenne vescovo di Nola e santo, Gerolamo così consiglia: il vero tempio di Cristo è l'anima del fedele. Ornalo questo santuario, abbelliscilo, deponi in esso le tue offerte e ricevi Cristo. A che scopo rivestire le pareti di pietre preziose se Cristo muore di fame nella persona di un povero? E Gerolamo concretizza: bisogna vestire Cristo nei poveri, visitarlo nei sofferenti, nutrirlo negli affamati, alloggiarlo nei senza tetto. Gerolamo, definito da Prospero di Aquitania modello di condotta e veste del genere umano, ci ha lasciato anche un insegnamento ricco e vario sull'ascetismo cristiano. Egli ricorda che un coraggioso impegno verso la perfezione richiede una costante vicinanza, un assiduo lavoro intellettuale o manuale per evitare l'ozio. Nel cammino ascetico può rientrare anche, così dice, la pratica dei pellegrinaggi. In particolare Gerolamo diede impulso a quella in Terra Santa dove i pellegrini venivano accolti e ospitati negli edifici sorti accanto al monastero di Betlemme grazie alla generosità della nobildonna Paola, figlia spirituale di Gerolamo. E un ultimo punto, non può essere taciuto l'apporto dato da Gerolamo in materia di pedagogia cristiana. Egli si propone di formare un'anima che deve diventare il Tempio del Signore. Tra le principali intuizioni di Gerolamo come pedagogo si devono sottolineare l'importanza attribuita a una sana e integrale educazione fin dalla prima infanzia, la peculiare responsabilità riconosciuta ai genitori, l'urgenza di una seria formazione morale e religiosa, l'esigenza dello studio per una più completa formazione umana. E inoltre un aspetto abbastanza disatteso nei tempi antichi, ma ritenuto vitale dal nostro autore, è la promozione della donna, a cui riconosce San Gerolamo il diritto ad una formazione completa, umana, scolastica, religiosa, professionale. E vediamo proprio oggi come educazione. Educazione della personalità nella sua integralità, educazione alla responsabilità davanti a Dio, davanti all'uomo, è la vera condizione di ogni progresso, di ogni pace e di ogni riconciliazione, di esclusione della violenza. Educazione davanti a Dio e davanti all'uomo è la Sacra Scrittura che ci offre la guida della educazione e così del vero umanesimo. Non posso concludere queste rapide annotazioni sul grande padre della Chiesa senza far cenno all'efficace contributo da lui ricato alla salvaguardia degli elementi positivi e validi delle antiche culture ebraica, greca e romana nella nascente civiltà cristiana. Gerolamo ha riconosciuto ed assimilato i valori artistici, la ricchezza dei sentimenti e l'armonia delle immagini presenti nei classici che educano il cuore e la fantasia a nobili sentimenti. Soprattutto egli ha posto al centro della sua vita e della sua attività la parola di Dio che indica all'uomo i sentieri della vita e gli rivela i segreti della santità. Di tutto questo non possiamo che essere profondamente grati proprio nel nostro oggi.